La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Cara Barbara, potevo scrivere solo a te. Sono Alessia, sono di Perugia, ma da 3 anni, per amore del mio compagno, mi sono trasferita nella sua città, Brescia. In questi 3 anni ho stravolto la mia vita, non c'è più niente di uguale a prima. Ho avuto la gioia di diventare mamma. Sto cercando di costruire la famiglia che tanto desideravo col mio dolce compagno. Sto avendo tanto, mi sento fortunata. Eppure però, da quando vivo qui ho perso la serenità. Mi manca tanto la mia città, i miei genitori. Piano piano gli amici si stanno allontanando. È come se avessi azzerato tutto quello che avevo costruito in 35 anni di vita. E non pensare che qui mi pianga addosso. Esco, ho conosciuto persone carine. Sono immersa in un gioioso mondo di mamme e bambini piccoli. Eppure, Barbara, credimi, non mi basta. Mi sento spenta, totalmente fuori posto qui a Brescia. Mi aiuti? Il mio bambino e il mio compagno non se la meritano la mia tristezza. Ti abbraccio forte, Alessia. Ma se ti devo rispondere secondo ragione, ti dico un'ovvietà, che Perugia rispetto a Brescia non è mica l'altro capo del mondo, non è il polo. Sono poche centinaia di chilometri, qualche ora di treno, e non dovrebbe essere difficile organizzarsi, passare, che so, un paio di mesi estivi a Perugia, tenere i contatti, invitare gli amici, ospitarli a Brescia. Ma la tua nostalgia, credo, sia più profonda. Tu vivi con la testa girata verso il passato. Non vuoi uscire dalla prima giovinezza e ti senti in prestito. Questa nuova vita ti sembra quella di un'altra. Non ti sei trasferita. Continui a pensarti come deportata in un'altra città, in un'altra realtà. Io credo che più che entrare nella nuova città, tu debba entrare nella nuova Alessia, quella di 35 anni. E non c'è bisogno che tu rinneghi quella di 18. Bisognerebbe che le due trovassero un modo per accordarsi. Ma scusa una domanda indiscreta che viene spontanea leggendo la tua lettera. Sei sicura di non esserti pentita del tuo matrimonio? Sei sicura che la tua terra straniera non sia Brescia, ma l'uomo che hai accanto? Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Contro la morale della riduzione, che vede solo il brutto perché lo vuole, partiremo per il mirabile. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Quello che avete sentito è Tony Servillo nella parte di Giuseppe Gambardella nel film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Su questo film è scoppiata una guerra di giudizi contrastanti. Lasciamo stare i critici. Qui parliamo della critica vera, quella che conta, ovvero degli spettatori, che escono di casa per andare a vederlo, poi tornano e si accorgono che è successo qualcosa. Questo film, chi lo ama, chi lo odia, non c'è via di mezzo. Si sono formati due partiti. È dai tempi del Novecento di Bertolucci che non mi ricordo tanto fervore polemico attorno a un film, tanto entusiasmo e tanto malumore. E allora è un grande avvenimento. La terra trema, si parla d'arte, si parla di cinema, si parla di un film che si rivolge al profondo, all'inconscio, all'anima, chiamatelo come vi pare. Un film che parla della realtà più concreta dell'uomo, la sua spiritualità. C'è chi esce dal cinema bestemmiando e chi, invece, colpito al cuore, si ritrova a piangere. Chi grida il capolavoro, chi è la schifezza. Se ne discute nelle case, nelle tranvie, e si guastano amicizie, si rivelano affinità. Il film divide o unisce, nel vituperio o nella lode. E quello che tutti i pubblicitari del mondo sognano e che nessuno riesce a ottenere, anche con grandi mezzi, è avvenuto per combustione spontanea. Nessuno è indifferente. Make a person say, what good is my life? Una sera del 1920, Majakovskij esce dal Cane Randagio, il locale dove ha avuto un delirio di applausi leggendo Proeta, ma è furibondo e dice: è stato un fiasco, nessuno ha fatto a botte per me. Quando ci si accapiglia, questa è l'avanguardia. A parte il gusto chiassoso di Majakovskij, che credo sia molto lontano dal regista della grande bellezza, io vi dico subito che qui al Faro, oltre che a Melog, dove Nicoletti gli ha già dedicato una trasmissione, siamo del partito degli entusiasti, di chi si è esaltato davanti al film, ci ha pensato, ripensato, parlato, riparlato con gli amici, e adesso ne parliamo anche voi. E poi la cosa è molto più semplice delle sue argomentazioni. C'è chi si è commosso e chi no. Chi si è riconosciuto e chi no. Chi l'ho sentito e chi no. Io semplicemente ne sono stata toccata e rallegrata, anche se il Requiem, perché è bello. Sono delle scene. D'un tratto Roma, verso il finale, si riempie di fenicotteri. E un'amica che ha detestato la scena mi dice: ma non hai visto che sono finti, sono fatti in digitale? Ma non lo so. Ma che me ne importa? Io ho visto un fenicottero più grande del Colosseo che sembrava redimere la pesantissima bellezza di Roma, mentre la vecchia santa, guardandoli, dice: conosco uno per uno il nome di battesimo di questi uccelli. E poi, con la sua bocca sdentata, fa un soffio e tutti se ne volano. E ho sentito un'ondata di gioia. E quella non si spiega. Meglio, così non si disperde. Hai un'altra scena. Le strisce in cielo. Uno dei punti più alti, una delle sintesi poetiche del film, è quando Serena Grandi, che ha la nobiltà di mostrarsi come è ora, smisurata e tagliuzzata, e recita nel ruolo di una cocainomane all'ultimo stadio, che ripulisce il tavolo di ogni traccia di polvere bianca, poi si affaccia, e in cielo stanno passando due reattori che lasciano le loro code bianche parallele, e lei vede nell'aria due immense strisce di cocaina. Estatica, sembra una santa in visione. E vediamo, lei è nel cielo della droga, la droga è la sua fede, e lì Serena Grandi è così piena di luce che sul suo volto martoriato riappare la faccia bella di quando era la bella tra le belle. Sometimes when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. La grande bellezza parla di Roma, ma è un sogno di Sorrentino. È una città sognata e, come sempre, i sogni ci rivelano il vero. Questo film è stato paragonato ossessivamente alla Dolce Vita di Fellini. Ma sì, certo, l'ascendenza c'è. Però mi pare che certi critici, quando vedono un film fuori dai canoni, è come se avessero paura di perdersi in una terra ignota e senza riferimenti non sanno muoversi. Oppure, non so, come in Questura, dove contano soltanto i precedenti. E sono stati molto paragonati anche Marcello Mastroianni e Tony Servillo. La parentela c'è nel risultato artistico. Entrambe sono interpretazioni da storia del cinema. E li unisce anche una amabilità creaturale che va oltre il talento. A tutti e due gli vuoi un gran bene, dall'inizio alla fine. A Giuseppe Servillo, il dandy stufo di tutto, anche del cibo, anche del sesso, gli credi sempre. E appena muove un sopracciglio, ti tiene in sospeso. Intimamente ti riguarda. C'è una sincerità in lui. E lo metti fra i personaggi del tuo immaginario che più hai amato al cinema, nei libri, uomini, bestie. Lo metti col principe Mishkin, con Zanna Bianca, con Bartleby. A Jepp credi quando teorizza che non è bene piangere ai funerali, e gli credi quando, portando la bara del giovane suicida, lì che non gli importa nulla, scoppia in singhiozzi. E gli vuoi ancora di più un bene matto. È elementare il legame fra attore e pubblico. La fascinazione o c'è o non c'è. Jepp, il profondo, il frivolo, la grazia. Basterebbe, come fa a camminare Jepp, a farne un attore immenso. L'ironia, la tenerezza del suo camminato, quei passettini, come lasciarsi indietro la malinconia. Nel racconto Berenice, Edgar Poe cita una frase: «Tu sais pas et t'es des sentiments». Tutti i suoi passi erano dei sentimenti. Così Tony Servillo. Gianluca Nicoletti ne è rimasto così colpito che lo imita perfettamente ogni tanto per la nostra delizia. Ci fa il passo di Servillo Jepp in redazione. Gianluca Nicoletti, ci vuole parlare per favore della camminata di Servillo nel film? Io finora solo un passo imitavo, che per me era la sintesi più assoluta della romanità. Era il passo col saltellino di Alberto Sordi, che è la cosa più cialtrona che esista. È entrare in un ambiente che non ti accoglie, di cui non hai nulla a che fare. Era mostrare la propria intraprendenza, era rompere una regola e essere aggressivamente coatto. Invece no, il passo di Servillo è esattamente il contrario. È uno studio molto profondo, perché si vede il sublime passo del grande gagà romano, di quello che è ancora al di sopra della dolce vita romana, dell'ambiente terrazziero romano, del lusso ostentato di questa Roma marcita terrazziera, perché lui ha questo suo passetto. Si vede una mattina in cui lui ritorna da una di queste sue notti brave, passate sempre come osservatore partecipato, però lui stava dentro ma riesce anche a stare fuori. E lo sorpassano due quattoni romani che la mattina fanno footing e corrono dicendo le solite parolacce in romanesco. E c'è questo passo diverso, questa aggressione diversa dell'argine del Tevere. Questi due che corrono, che scappano, schifosi, malfatti, nulla cambierà del loro aspetto fisico, quella forzata corsa che fanno per essere in forma. Non saranno mai in forma, sono destinati a essere fracici, sono della stirpe coatta e coatti rimarranno. Lui no, lui fa piccoli passi, lui ha un fisico perfetto, ha 65 anni, ha il fisico di un ragazzino, si vede quando si tromba la Ferrari, si vede per un attimo nudo, sembra un bambino, un ragazzino. E anche questa vicenda di questo atto sessuale con questa donna che nulla da dargli, poi gli dice: ma sono stata brava, perché Sparrow gli dice: sì, sei stata bravissima. Lui non dice nulla, e poi le porta anche le foto di lei nuda su internet. Beh, anche lì il momento della seduzione, l'atto sessuale, è consumato come una sorta di passo da torero. Lei che arretra, lui fa due passetti, scompaiono, poi si vedono nudi, si dice: ha già fatto, lui me l'ha fatta con nonchalance. Poi si alza in mutande, fa il suo passetto in mutande, si affaccia alla terrazza, dice: ma c'ho un'età per cui posso anche permettermi di fare quello che voglio, e se ne va. Beh, è tutta la sintesi nel passo di Servillo, secondo me. Non so se è il suo passo naturale o se ha pensato al passo di Jepp Gambardella, che è il passo per aggredire lentamente, dolcemente, tenuemente, è quasi una danza, questa sorta di tacchettare coatto. Roma si sente soltanto il rumore dei tacchi delle troie su San Pietrini, e gli uomini camminano con queste scarpe con rialzo, le porta anche il sindaco Alemanno. Sono delle scarpe di gomma che in realtà si rubano 4-5 centimetri, come quelli che si tagliano i peli del pisello per farlo sembrare più lungo. È tutta un'illusione. Beh, in questo ho visto veramente la sublime poesia di Servillo. La guardiana del faro. Dicevamo che il film La grande bellezza di Paolo Sorrentino ha sollevato una grande tempesta, un nembo di commenti, attacchi violenti, consacrazioni solenni, e queste interpretazioni, favorevoli o indignate, testimoniano la grandezza del film. La storia del film è il suo personaggio, Jep Gambardella, questo dandy disilluso e votato alla leggerezza più greve, il gioco sociale, stufo di tutto eppure di tutto infantilmente curioso, che ci accompagna nel girone degli affiliati alla mondanità. Qui parla il regista in un'intervista al Fatto Quotidiano. Jep è arrivato a Roma coi calzoni corti e l'ambizione di entrare in contatto con la mondanità. Ne è stato risucchiato. Ha studiato per poi accettarne le regole d'ingaggio. Il vizio dominante. Ostentare l'ipocrisia. Offuscare in mancanza di talento quello degli altri. Perché il fallimento altrui aiuta a dimenticare il proprio. E il giornalista gli chiede: nelle feste frequentate da Servillo, luoghi comuni e risentimenti sembrano il prodotto di un vuoto, e Sorrentino: vogliono parlare tutti e tutti insieme. In questi incontri non ci si ascolta e alla lunga ci si incattivisce. Si passa il tempo a dir male dell'altro. Si distrugge l'amico perché non ci ha fatto un favore e si abbraccia il nuovo con la certezza che lo si tradirà domani. E a proposito della dolce vita e del mito di Via Veneto, il giornalista scrive: nel film di Sorrentino, Via Veneto è una strada deserta, spazzata dal vento. Gli sgranati splendori di un'epoca lontana hanno nel film un che di definitivo. Gli individui, smarriti in un falso movimento di musica e colori, saltano, cambiando d'abito da un convivio a una mostra, e si ritrovano al punto di partenza, in una perpetua festa declinata a funerale. Si balla e ci si parla addosso, indifferenti a tutti. Tony Servillo e Jep Gambardella, trasformato, grazie al successo del suo primo libro, in firma da settimanale e gagà. Intorno a Jep, alle strisce di cocaina e ai camerieri in livrea, scodinzolano ancelle invecchiate. O giocattolai annoiati col desiderio della sveltina, un Carlo Bucci rosso sudato che danza e dice alla ragazza: te chiavasse. A stelle deformate dal botox, Serena Grandi, cardinali più interessati al coniglio in fricassea che al trascendente, una galleria di vinti e presunti vincitori gravati dal peso di un'esistenza che si ripete identica a se stessa. Le tappe sempre uguali, da inseguire con febbrile, robotica, sterile ostinazione. Poi, quando anche l'ultima oliva del Martini annega nel bicchiere e ogni redenzione pare perduta e la decadenza sembra l'unica lettura possibile, nella grande bellezza si intravede la luce della spiritualità. È un lampo improvviso che cambia il tono del racconto. Adesso, se volete guardare i commenti sul film, io ci ho provato su internet e pensavo mi si fosse rotta la stampante, perché non si fermava mai. Mi sono venute fuori 70 pagine di commenti più disparati. Allora, dato che sono anche di un altro tempo, preferisco ascoltare chi ho vicino. E ho ascoltato la lettura che ne ha fatto Samuela Pagani, studiosa di arabo, che vive in un faro più remoto del mio, ma meno di quello nel quale finirà Jep. Lei sta in cima al Medioevo islamico, fra i mistici, i saggi, i musici dell'antico Islam. E da lassù, la contemporaneità la vedono benissimo. Tra l'altro, lei è anche un po' smorfiosa, come il poeta Umberto Polignano, che non vogliono venire a parlare alla radio. Allora ve lo racconto. Vi racconto cosa ha detto Samuele Pagani. C'è una grande assenza. Questo film è tutto un balletto intorno a un'enorme assenza. E Jep lo dice. Lui è stato l'autore di un grande libro, 40 anni prima. E poi basta. E quando gli chiedono perché non ne ha mai scritto un altro, lui risponde: cercavo la grande bellezza e non l'ho trovata. E questa grande assenza, assenza della bellezza, è immersa in una bellezza apparente, spettacolare, ma non è quella che gli interessa. Jep guarda il soffitto della sua stanza e vede il mare. È quello che il suo sguardo vede. Ed è molto importante la scena con Sabrina Ferilli, in cui anche lei lo vedrà, azzurro, increspato, vero, sul soffitto. Però un momento, prima di parlare dell'incontro così importante con questa donna, c'è un altro incontro con una Isabella Ferrari, splendida come donna e come attrice, il tipico incontro che Geppe può fare tutte le sere, con una donna molto bella, molto sexy, molto ricca, molto banale. Si incontrano, si piacciono, ma nemmeno poi tanto. E lui, meccanicamente, sale da lei. E poi questo amplesso noioso, senza un soffio di ragion d'essere, di emozione, in questo letto più mortuario della morte, dove nulla è vero. E dopo questo accoppiamento triste, come se non si fossero annoiati abbastanza, lei è lì nuda, ma non le basta. Vuole mostrargli le foto di sé nuda che manda via internet. Brava la Ferrari in questa donna così alienata nel culto di sé, che più è mediato, più vale. Tanto che l'originale, invece di sé, offre l'immagine. Il simulacro cancella la persona, la sostituisce. Lei ha il male del secolo, l'idolatria di sé. E Jepp scappa, si rifiuta di partecipare al culto e sparisce. E il Servillo è di quegli attori che riescono a esserci in assenza. Dopo che se n'è andato, la stanza è piena di lui, dei suoi passettini leggeri in fuga. E lui in quell'occasione dice la frase che mi voglio scrivere sulla porta. A 65 anni non ho più tempo per fare cose che non ho alcuna voglia di fare. La frase che tutti i vecchi di senno dovrebbero imparare, ma i giovani specialmente. È questa assenza che fa diventare Geppe l'arbiter vanitatum, il maggiordomo, l'ospite, l'intrattenitore di questo nulla, che lui solo sa vedere come assenza, come testimone di un'assenza. E poi ci sono degli squarci in cui c'è la presenza, ovvero in cui la bellezza si manifesta. Ed è centrale l'incontro con la Ferilli. Il personaggio della Ferilli è una spogliarellista che ha passato i 40 e non vuole smettere di fare lo striptease. Il padre si preoccupa. Oh, mica può continuare a fare lo spogliarello artistico a 50 anni. Ma lui non sa che questo per lei non è un problema. Lei ha un segreto. È malata. E sa che non arriverà mai a 50 anni. Geppe si trova davanti una persona semplice. Il personaggio della Ferilli vede il re nudo per inclinazione naturale. Non c'è infingimento. Ed è un paria nella società di Geppe, perché è una cafona vera, con l'autenticità del significato originale della parola, che alludeva alla terra. E i cafonal, come li chiama D'Agostino, ridono di lei e la respingono. Lei è fuori dal mondo della rappresentazione, è nel mondo della carne, nel mondo del sentimento, è l'opposto della Ferrari. La Ferilli è una donna che non ha un'immagine di sé. La vediamo nella ciambella di gomma, nella sua piscinetta, della villetta burina, senza preoccuparsi di come appare. È una bambina. Che il personaggio di Sabrina Ferilli non sia di questo mondo, lo vedi da come si veste. Quando esce con lui è abbigliata come in un fantasy, praticamente nuda, con una piccola tuta che la lascia nuda e con una fastosa cappa di raso verde-blu, color pavone, dal colletto altissimo e malgrado tutto reale. C'è anche in quella cappa una sfumatura della regina di Biancaneve di Walt Disney. Lei se ne frega della moda, è al di sopra. Se ne frega del tagliando sociale pacchiano dell'abito firmato, che sta tanto a cuore a chi non ha una personalità, a chi rispetta le regole del gioco più basse e ridicole. Senza tante parole, lei e Geppe si intendono così bene, tanto che ci sarà poi la scena in cui nel soffitto della camera di lui anche lei vedrà il mare. Io non sono mai stata entusiasta della Ferilli, anche se in tutta la vita davanti era bravissima. Ma a proposito del voler bene a un personaggio, al suo gliene vuoi, per sempre. Mi sono convertita alla Ferilli, perché un personaggio così non si può fingere. Mentre il personaggio di Isabella Ferrari rappresenta la vanità non nella dandistica consapevolezza che ne ha Geppe, è la vanità senza spessore, il puro specchio. Lei ha solo un'immagine di sé, che poi è negli occhi degli altri e, se possibile, fissato tecnologicamente, e non sa che è l'immagine della sua morte. Lo sa invece il giovane artista che si è fatto maniacalmente una foto al giorno per tutta la vita e le espone queste migliaia e migliaia, tutte sotto degli archi all'aperto, con un effetto cimiteriale. Ha fotografato il morire giorno per giorno. Ha fotografato l'effimero, ciò che è alla base del dandismo di Jeppe, le foto di una tomba. In Egitto, nelle piramidi, ci sono gli affreschi dell'età della vita. Sono proprio il film dell'esistenza, e anche la grande bellezza lo è. E questa verità fa irruzione col messaggio dall'aldilà, quando un giorno da Jeppe all'improvviso arriva il vedovo della prima ragazza che ha amato. E questo vedovo va da lui disperato a dirgli che lei è morta, e ancor più disperato perché gli rivela che lei ha sempre amato soltanto Jeppe. E poi qui c'è un risvolto inaspettato. Il messaggero si libera del peso della sua ambasciata e ritorna tranquillamente a vivere, perché noi ci immaginiamo, beh, adesso questo si sarà votato alla memoria della moglie perduta. Invece no, si mette subito con un'altra, con Innocenza, perché lui vive giorno per giorno. Per lui sì che esiste il quotidiano, non come per il dandy, Mimnermo, l'elegiaco, che muore tutti i giorni, non vive giorno per giorno. Perché è ossessionato dalla morte, la Ferilli gli muore subito. La mostra del fotografo è un memento mori, come quando il cavaliere nell'iconografia medievale vede la morte davanti a sé. E c'è questo richiamo dall'aldilà della sua prima ragazza, per cui non gli interessa nessuna strafiga di questo mondo, ma solo lei che amò nell'isola del Faro e che lì lo farà tornare. E lui torna e chiude gli occhi. Euridice lo ha chiamato e lui va nell'Ade del Faro. La guardiana del faro. Continuo a parlarvi del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Come ha detto Nicoletti Amelog, Roma non c'è mai. È vista sempre dall'alto o dal basso. La prospettiva sempre dagli argini, dai margini. La romanità emerge in frammenti vocali di due che, facendo footing, passano. L'aggressività più quotidiana e brutale. Il film è un montaggio sonoro delle sue riflessioni di vecchio dandy malinconico, montati con questi spezzoni della realtà, che ci fanno capire anche perché Jeppe è così attaccato al niente. Perché il reale è intollerabile. E poi, quando devono invitare la santa, che ha 104 anni ed è vestita come Teresa di Calcutta, e la devono invitare a una cena nella terrazza di Jeppe, la santa ha chiesto di rivedere una coppia di nobili che conobbe nel passato, però questi non sono disponibili, sono morti, non ci sono. E allora, contando sulla smemoratezza della santa, che non li vede da 40 anni, ricorrono ai Colonna di Reggio, nobili a noleggio. 250 persone per la presenza a cena. E dopo la prestazione, la nobile, che vive in una casa non più sua, un museo per scolaresche, va nella sua vecchia stanza e si ferma davanti alla culla. Ecco, il racconto si infila negli angoli e prende una strada inaspettata. Io, facendo una sceneggiatura, mai l'avrei fatto una scena così. Invece c'è, è bella. E va fuori tema, ma senza andarci mai. Perché tanto il tema è l'emozione. Un filo emotivo fortissimo lega tutto. È bello il personaggio di Verdone. Qui prendo sempre dal fatto. Uno strepitoso Verdone, il malinconico amico all'ombra di Jeppe, provinciale come lui, declassato, sottomesso e disgregato come in un verso di Rino Gaetano. Il personaggio di Verdone è complementare a Jeppe, un'altra faccia della sua malinconia. E un altro insoddisfacibile, perché Jeppe è insoddisfacibile. Verdone è l'altra faccia dell'assenza. È il volto dolorosamente comico di quell'assenza di cui Jeppe è il volto tragico. quando viene la sera e il silenzio è più grande, c'è nell'aria qualcosa che mi parla di te. Certo che Geppe piange al funerale, è assediato dalla morte, ama una morta, la sua prima ragazza, e ama una che subito morirà. E quel ragazzo che si suicida, vinto dalle domande senza risposta sulla vita e sulla morte, è il suo rovescio comico. È così malinconico il film, che è anche spietatamente sarcastico, e il depressone fa ridere, è orrendo, è un cretino. E la sua mammina preoccupata e alcolista è immonda. Quel ragazzo è uno che ha preso di dritta l'enigma esistenziale e diventa ridicolo. È il volto grottesco di una riflessione sulla morte. E Geppe amabilmente lo sfotte. Ma il matto che è folle per pochezza, per non saper sorridere, per non saper elaborare un pensiero, si arrovella sugli stessi temi su cui elegantissimamente, leggerissimamente, senza darlo a vedere, si arrovella l'altro. La grande bellezza è un'elegia. Una variante letteraria per dire lamento funebre. Il funerale è in contemporanea, è sui fatti. L'elegia è invece il rimpianto di tutto ciò che fu, anche se si è perduto molto anticamente, perché l'assenza di ciò che fu è presente. È l'assenza che abita la vita e la rende invivibile. E poi la scena di cui parlavo prima, in cui la terrazza di Geppe e la strada, il panorama di Roma, si riempiono di fenicotteri. E la santa dice la frase che ho già citato: conosco uno per uno il nome di battesimo di questi uccelli. Sottile la creazione della santa, perché anche lei approva il compromesso. È ammanicata con questa genia di preti frivoli e corrotti, come Erlitzka, che è identico al cardinal Tonini, che alla parola spiritualità si dà la fuga. La santa è anche una vecchiaccia da terrazza, che stringe le mani di quei nobili, veri o finti, chi se ne frega, la mondanità. Però fa miracoli veri. Con gli uccelli. Su Geppe, un miracolo piccolo, un sollievo, dice Sorrentino, l'incontro con la suora gli serve a riconsiderare più lietamente quanto ha vissuto, lenendo il malumore, sapendo che c'è una bellezza anche nell'ambizione non realizzata, nel niente della vita, più emozionante di qualunque mito letterario. Questa scena dei fenicotteri, l'apparizione della ragazza morta, che è il suo primo ricordo d'amore, e il mare sul soffitto, sono le tre immagini della grande bellezza. Sono questi squarci di assoluto che confermano l'esistenza dell'assenza. E quello che fa soffrire lui e noi è proprio questo, l'esistenza dell'assenza. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Della discussione infinita che abbiamo fatto su questo film con gli amici, che poi più che discuterne erano una scusa per restare nel film, per starci dentro, ecco un frammento della mia amica Giuliana Gamba, marchigiana, regista. La grande bellezza è un film che mi si è conficcato nel cuore. E la grande bellezza in realtà è la vita. E Sorrentino ha avuto una grande intuizione profonda che questa crisi, l'uscita dal tunnel, non sarà tutto uguale, sarà completamente diverso e bisogna rinascere. E cosa si rinasce? Dalla parte migliore dell'uomo, che è la grande bellezza, ciò che l'umanità sa fare meglio. Le atrocità della guerra uno le dimentica, ma ciò che rimane nel percorso umano sono le grandi bellezze, la parte migliore dell'uomo. E mi ha cambiato lo sguardo, il punto di vista sulla vita. Ognuno di noi vive nel suo tempo. Ciò che ti rimane sono dei flash. Nella mia vita, come nella vita del protagonista, dei frammenti. Io adesso cammino per le strade in maniera diversa dopo aver visto questo film, perché vedo dei frammenti di bellezza. La mia vita cos'è fatta? Di quel bacio da giovane, di quell'amore dei miei nipoti, di vedere il sorriso di mia figlia. Cioè, la vita è fatta di questi attimi, di questi flash, un bacio, un sentimento, tutto il resto sono trenini, che dice quanto sono belli i nostri trenini. Cioè, il trenino è fuffa, è la ferile, l'immagine della nostra società oggi, cioè è una maschera tragica su un corpo levigato perfetto. È un po' come le statue nei grandi palazzi nobiliari, hanno questi visi sbriciolati dal tempo, però la sinuosità del corpo, la sensualità del corpo rimane intatta. Questo è che mi ha molto colpito dall'idea, poi, che ha avuto Sorrentino, di pensare e prendere la Ferilli. Domani, domani, ma che cos'è questo domani? Domani è un giorno che hai inventato per farmi sperare così. O poi dirò due parole sulle critiche negative, ma proprio due, perché lo snobismo non è mai intelligente e mai veramente interessante. Alcuni hanno fatto la lezioncina al regista, si indispettiscono perché vorrebbero vedere il film che avrebbero voluto fare loro e che mai faranno. Gli impartiscono istruzioni per il futuro e gli prescrivono, in nome di non so quale perbenismo estetico, di non permettersi più un'eccessiva libertà di stile. Lo ammoniscono. Mi viene un dubbio, ma forse si concede d'essere poeta solo a chi se ne sta nella nicchia? E guai che la poesia si diffonda? Un altro scrive: lo aspettavamo tutti, il grande film su Roma di Paolo Sorrentino, e tradisce la premeditazione. Sì, lo aspettavano, col mitra lo aspettavano, col Kalashnikov. E un altro grida: arridateci a Ivan Zina. Ma caro, chi glieli leva? Con tutto il rispetto per quei due operosi e abili cineasti che hanno fatto ridere milioni di persone, hanno fatto dei grandi successi e che hanno un merito inestimabile di non essere mai voluti sembrare altro da ciò che sono. Ma se lui piace l'hamburger, che se lo goda. Io invece preferisco l'iridescente fagiano. Ognuno si nutra come gli pare. E viene il sospetto che alcuni critici vadano al cinema non sperando di essere affascinati, ma fortissimamente sperando che sia una ciofeca per avere la conferma della loro visione. Perché sono agenti della bruttezza, e allora, per persone così, perfino il titolo, La grande bellezza, suona come una provocazione. Ma in una breve poesia di Emily Dickinson c'è il senso del film. I'm nobody, who are you? Are you nobody too? Io non sono nessuno, e tu? Nessuno anche tu? Allora siamo in due. Ma non lo dire, se no ci cacciano via. Che noia essere qualcuno. Quanto volgare, come una rana, ripetere il tuo nome per tutto giugno a uno stadio ammirato. Quando l'alba ritorna, nasce una speranza, ed aspetto la sera nell'attesa di te. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.